140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter e da questa settimana abbiamo anche un account ufficiale 140 caratteri R24 e abbiamo anche una nuova pagina Facebook 140 caratteri _ Radio 24. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Terrazza Martini, Milano. Leggenda con Django di Corbucci è tornato con Django Unlimited di Tarantino. Presentando l'Ischia Global Fest racconta ieri e oggi. Franco Nero. Prima di tutto mi ricordo come feci il film, come fui scelto. Mi parlarono di questo film e io stavo in macchina con Elio Petri, che era un grande regista. Però mi dice, sai Elio, mi hanno detto di fare un western, ma io sono un attore che vengo dal piccolo teatro di Milano, che vado a fare uno spaghetti western. Lui mi disse, ma ti conoscono? Sei conosciuto? No. E allora fallo, non hai niente da perdere. E praticamente lui mi convinse di farlo. Ma come avvenne la scelta dell'attore? La scelta dell'attore venne così, che c'erano tre produttori, uno è Renzo Rossellini, e lui voleva il suo Mark Damon. C'era Bolognini, che aveva visto un attore spagnolo, si chiama Martel, allora, non so, roba del genere. E Corbucci disse, a me piace sto giovane che sarei stato io. Allora Bolognini disse, senti, facciamo una cosa, nessuno di questi ha nome, ci pigliamo una foto di ognuno di questi, andiamo da Fulvio Frizzi, che era il dirigente della Euro International Film, la distribuzione, lui sceglierà la faccia che vuole. Allora portarono le tre foto da Fulvio Frizzi e lui mise la mano sulla mia faccia e così fece il film. Un secolo fa, sulle basse colline che segnavano il confine tra gli stati del sud ed il selvaggio Messico, apparve la misteriosa figura di un uomo dal volto triste ed impenetrabile. Django! Django, have you never loved again? Love will live on, life has gone on, for you cannot spend your life regretting. Allora, noi iniziamo il film qualche giorno prima di Natale. Naturalmente non c'era sceneggiatura vera, era un po' un'idea. E non mi scorderò mai che feci una scena che mi tiro via il cappello e guardo la donna, non si sa, lei era Loredana Nuscia. E poi praticamente dicono, guarda, dobbiamo un attimino bloccare il film perché dobbiamo ancora vedere la storia bene. E allora Sergio Corbucci chiese aiuto al fratello Bruno Corbucci e durante le feste natalizie lui fece la scaletta. Proprio bom bom bom bom. Chi era quell'uomo? Quale segreto si celava dietro di lui? Non importa. Quello che importa è che voi state per morire. L'uomo era spietato nella vendetta, rapido nelle decisioni, infallibile nelle armi. Era un uomo che tutti avrebbero voluto vedere morto. Uno che si chiama Django. Un nome ed un film che non dimenticherete più. Nel frattempo ci trasferimmo in Spagna e abbiamo fatto qualche passaggio, ma niente di particolare. Mi ricordo che si fece la rapina, quando una scena d'azione, ma stemmo lì pochi giorni. Mi ricordo che l'operatore Renzo Barboni, cioè B.H. Clutcher, continuava a dire a Barboni, illumina bene quei laghetti azzurri che mi fanno fare tanti soldi. Era un modo così. Andavamo per la Gran Via e lui mi diceva, io faccio West come regista, dove non ci sono morti, tu me lo devi fare, Trinità. Sempre con questa cosa. Dico, aspetta, dobbiamo ancora finire questo, vediamo. Tornammo a Roma e si cominciò a girare alla Helios, che misero tutto il fango, no, per fare un film un po' strano, un po' come un film alla giapponese, dei samurai. Poi un giorno Corbucci chiamò il suo amico rivale Sergio Leone e dicendogli: tu hai avuto Clint Eastwood, vieni a vedere quello che ho io qua. E praticamente Leone venne e vide me che ero giunto un vestito di nero col mantello e fa: ah, oh, mi sa che ci hai azzeccato. Credevi di aver vinto, vero Django? E invece eccomi qui, a combattere la mia guerra. Una guerra che non finirà mai. Stai pregando. È giusto, si prega quando si è vicini alla morte. Ma non puoi farti il segno della croce con quelle mani. Ti aiuterò io a farlo. In nome del Padre. Del Figliolo. Dello Spirito Santo. E così sia! Com'è stato questo set, questa esperienza con Tarantino, che la ama? Beh, è stato molto bello, perché un set molto organizzato, all'americano, molto grande, con roulotte, con, sai, controfigure, tutto. Sono stato trattato come un piccolo re, diciamo. Mi sono trovato molto, ma lui mette tutti a proprio agio, devo dire, perché è un grande bambinone, gli piace fare scherzi, parlare, dire aneddoti in continuazione. È stato molto piacevole, molto piacevole. There ain't no grace can hold my body down. There ain't no grace can hold my body down. Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. When I hear the trumpet sound, what's your name? I'm gonna rise right out of the ground. Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Yes! Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention. I film di genere hanno fatto grande il cinema italiano. Lei come vede questo cinema oggi senza film di genere? No, non c'è più film di genere, perché film di genere lo fanno in televisione, fanno le telenovele chiamate fiction. E allora quando parla di polizia, quando parla di sono tutti in televisione, fanno queste serie, no? Perciò non esiste più, un peccato. Porca troia, l'ho perso! Vieni qua! Sono il commissario Belli, il libanese mi è scappato. Mi trovo al ponte di piazza caricamento. Ricevuto! Facciamo bloccare la zona! No, aspetta! Commissario! Commissario Belli! Sentite? Lascia perdere, non serve più. Vai. La televisione è la rovina del cinema. Se non ci fosse stata la televisione, noi saremmo ancora i primi al mondo come qualità di cinema. Invece in 30 anni abbiamo venduto nel mondo solo 3 film, per caso poi. Uno è Cinema Paradiso, che era un film morto, però un grande produttore l'ha fatto rivivere. Il secondo è il postino che è stato abbandonato per mandare in America l'America di Amelio. E una ragazzina della Miramax a New York ha visto, gli hanno chiamato i fratelli Weinstein, io ho visto un film che mi sembra molto bello. Allora, i Weinstein l'hanno visto e l'hanno urlato contro questa ragazzina. Ma come? Ma cosa ci frega noi in America di un postino comunista, di un che porta una lettera, noi che siamo un paese di capitali, ma vai, insomma, lei ha continuato a insistere, mi fa, senta, me lo fa uscire, lo possiamo far uscire solo in un cinemino con le critiche, l'hanno fatto uscire all'Angelicum, le critiche hanno cominciato, e il film è esploso, e la terza, La vita è bella, fatto a tavolino, però poi il cinema italiano, niente, allora si vendevano tutti i film, avevamo un mercato incredibile in tutto il mondo. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di televisione. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Parliamo, nella seconda parte di 140 caratteri, di televisione. Seven Stars Gallery, Milano. Da un settimanale nasce un nuovo canale sul digitale terrestre, Vero. Occasione per riflettere sulla TV con Marco Columbro e Corrado Tedeschi. Corrado, è un'occasione importante che qualcuno investa su una televisione nuova, su un progetto nuovo, in un momento così soprattutto? Ma è molto importante, anche perché l'impressione che danno Rai e Mediaset è quella di tirare i remi in barca, di chiudere, e invece c'è qualcuno invece che in un momento in controtendenza pensa invece di aprire un nuovo canale. E mi sembra un atteggiamento molto, molto coraggioso, speriamo che sia suffragato poi dai fatti e dai risultati. Parte con le migliori intenzioni, con un grande entusiasmo. Dicevamo prima con Marco Columbro che effettivamente noi abbiamo vissuto l'epoca pionieristica di Mediaset, e ora rifacciamo questa operazione con questo canale. Coltello, forchetta, cucchiaio, cucchiaino. Posate. Esatto! Cominciamo questo slalom di rivincita con la lettera che tra poco il nostro amico Tabellone ci indicherà, e cioè la lettera O. Ma Nicola, vuoi dire qualcosa? Vuoi dare già una risposta? Saresti un caso straordinario se mi dessi la risposta esatta. Eccola qua la nostra Filomena, vedi com'è più morigerata, lei è una semplice magliettina da 4 milioni perché ha finito di giocare. Lei sembra, ma questa costa una cifra, questo è, cos'è, Kashmir dell'Andalusia? No, non so, Però hai vinto, quanto hai vinto? 18 milioni, quanto hai? 12, no? 12 milioni mi sembra, più o meno. Sì, sono spiccioli, sono cosuccio, quel milione più, milione meno non si fa caso, va bene. Sì, benissimo. Adesso cosa c'è, Filomena? La pubblicità! Pubblicità! Speriamo bene, insomma, è una cosa un po' diversa dalle altre, per cui, insomma, poi se il nuovo che avanza è quello che offrono Rai e Mediaset, noi siamo dei rivoluzionari. Ecco, appunto, volevo chiederti anche cosa pensi un po' di questo momento della TV, tu che lo guardi anche col distacco di chi fa anche altro. Certo, dicevo prima, chi fa teatro adesso dai colleghi viene guardato come uno che abbia avuto un lutto in famiglia. Dice, cosa fai, teatro? Ah, capisco. No, no, invece è meraviglioso il teatro. Non lo so, l'impressione è proprio quella di soprattutto io parlo della rete di Stato, che è quella che è nostra, che manteniamo noi coi soldi, viene mantenuta dai soldi dei cittadini, e che fa un utilizzo dei raccomandati, è veramente orrendo, dove la politica mette le mani tutto diventa più volgare. Non si può vedere un conduttore che conduce il programma delle 7 di sera, il preserale, che poi si cambia la cravatta e presenta pure la prima serata. Mi sembra una televisione condominiale fa così, non la rete di Stato. Per cui veramente credo che ci sia bisogno di un'alternativa. Potrebbe essere questa, perché no? Abbiamo detto teatro, è bella questa cosa che la gente dice, com'è quando dici fai teatro? Quando i colleghi dicono cosa fai adesso? Dai, faccio teatro, ti guardano e vanno, ah, capisco. Come se avessi avuto un lutto in famiglia. Invece non sanno che... E il teatro è la cosa più bella e più difficile da fare, quella è la vera difficoltà del teatro, che è molto più difficile della televisione. Però vabbè, insomma, scusiamo questa ignoranza e torniamo in televisione, che mi ha dato tantissimo e quindi con un grande entusiasmo. E quest'anno però farai ancora teatro, intanto hai anche cinema in ballo, quindi un sacco di cose. Sì, ho finito adesso un film di Pupi Avati che uscirà poi quest'autunno, e l'anno prossimo farò Vite private di Noel Coward, che è un testo che amo molto perché è la commedia brillante inglese, elegante e per questo comunque molto spiritosa, fa molto ridere e a me piace quel tipo di umorismo. Marco Columbro, l'ultima volta che ci siamo sentiti con Radio 24 lei era un po' sfiduciato nei confronti della televisione. Non ero sfiduciato, che era un mercato un po' fermo per certi aspetti, per cui non vedevo. Adesso invece devo dire che Veneziani con questa iniziativa ha creato quel movimento necessario, come dire, a dare nuova linfa e nuova energia, quindi ha motivato anche soprattutto noi, i veterani della televisione, a buttarci in questa nuovissima esperienza e a creare un qualche cosa di, non dico di innovativo, ma se non altro di diverso da quello che c'è oggi nel programma televisivo. È un po' statico in questo periodo, direi che non, nessuno vuole prendersi iniziative, mettere volti nuovi, creare nuovi format. È un po', come dire, si sta a guardare dalla finestra quello che succede. Capisco che la crisi economica coinvolge tutto e tutti, però è anche questo il momento per poter fare, come dire, tentare perlomeno di creare nuove cose, insomma. Per colpa della televisione cosa farà? Abbandonerà per un po' i palcoscenici? No, assolutamente no. Io sarò un mese al Manzoni di Milano con Enzo Iacchetti, farò il vizietto dal 5 dicembre al 4 gennaio e quindi il teatro non lo abbandono per niente. È un ossigeno vero e proprio per noi. Giardino d'inverno, Torino. Alla festival Per sentieri e remiganti Antoine de Maximy. In Posso venire a dormire da voi? Si filma a caccia di ospitalità in giro per il mondo. Eh bien, ça aurait été pratique si j'avais pu dire se l'idée c'est ça. Sarebbe comodo poter dire questa è l'idea, ma in realtà l'idea è molto complicata. Dopo aver fatto moltissimi documentari, avevo voglia di fare dei film su persone normali. Come voi, come me. Avevo voglia di ritrovare la libertà totale di partire quando volevo, senza una truppa al seguito. Avevo voglia anche di non avere più le costrizioni di una rete che spende molti soldi. Volevo ritrovare tutta questa libertà e soprattutto firmare qualcosa che non si vede mai in televisione. Dei veri incontri. Alla televisione, quando si filma un incontro, si chiede alle due persone se sono d'accordo di essere riprese e non è più qualcosa di reale. Invece io comincio a filmare e chiedo dopo. Così sono dei veri incontri. E du coup, ce sont des vrais rencontres. Ma come fa a fare tutto da solo? Eh bien, il y a eu des progrès techniques qui font. Ci sono stati progressi tecnici, adesso esistono piccolissime telecamere che mi permettono di essere più leggero. Ma è comunque un bel lavoraccio, perché comunque viaggio con 25 kg di peso e bisogna pensare a molte cose: la qualità dell'immagine, del suono, come costruire il film, ma anche se la persona che incontro è interessante. Se per caso qualcuno alle spalle mi sta facendo qualche scherzo. E in più bisogna anche pensare a essere abbastanza simpatici perché la persona abbia voglia di accoglierti a casa. È un lavoro difficile. In questo festival in particolare si è parlato di gentilezza. Che cosa ha imparato lei dalle persone in termini di gentilezza? Moi, ce que j'ai constaté et que j'ai surtout beaucoup vérifié avec cette émission. Quello che ho constatato e che ho verificato con questa trasmissione è che se si arriva positivi, gentili, ottimisti, si crea una bolla di gentilezza e ottimismo che fa sì che si creino scambi con persone che sono nello stesso stato d'animo. Un incontro riuscito non sono solo due persone che entrano in contatto, sono due persone che trovano un ponte tra loro e che costruiscono questo momento, che diventa una sequenza. È un momento riuscito, è una sequenza riuscita. C'è la moschea qui. C'était les Turcs. Osman Turkish. Turki, Osman l'Empire Ottoman. Osman l'Empire Ottoman. Ah, ils ont fait ça, d'accord, yes. D'accord. Tamir. Ok, merci beaucoup. Merci. Abu Darzi. Merci beaucoup. Non, au revoir. Au revoir. Merci. I love you. Hein? I love you, français. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Ok. Invece i giovani che vorrebbero fare i giornalisti e fare i documentaristi, cosa consiglia? Je crois qu'il y a... Il faut essayer de se démarquer de ce qui... Bisogna cercare di smarcarsi da quello che esiste già, fare delle cose un po' diverse. Il pericolo però è quello di cercare di fare delle cose troppo diverse. Se si fanno le stesse cose degli altri, non c'è bisogno di te più che di altri. Quindi è necessario che tu ti crei una tua identità come giornalista, come modo di guardare le cose. Ma non bisogna fare qualcosa di diverso e originale a tutti i costi. In questo modo si va troppo lontano e si fanno cose troppo folli. È stato questo il mio problema all'inizio. Ero troppo lontano dall'atmosfera dell'epoca. All'inizio nessuno voleva questa serie. Ci è voluto un anno perché qualcuno iniziasse a trasmetterla. Il m'a fallu un an pour qu'on commence à la diffuser. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Ricordatevi il nostro nuovo account Twitter, 140 caratteri R24, ma anche la nuova pagina ufficiale su Facebook, 140 caratteri _Radio 24. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.